Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, questa è la rassegna della stampa europea, l'Europa vista dai media europei, e io sono Enrico Brivio. L'argomento che ovviamente ha dominato la scena sulla stampa europea questa settimana è la Siria che può essere vista un po' come la cartina tornasole delle divisioni europee in materia di politica estera, soprattutto perché si è determinato questo fatto, come sappiamo, piuttosto inatteso e inedito, di un voto contrario della Camera inglese all'ipotesi di Cameron di un intervento, che perciò ha creato una divaricazione storica tra la posizione inglese e quella statunitense. Ecco come gli giornali europei vedono questa cosa. Diciamo che dopo l'apice, il fatto a sorpresa avvenuto giovedì, c'è stato un accento anche su un tentativo di ricucitura da parte dei giornali inglesi. The Guardian ha messo in rilievo che Cameron vuole una risposta vigorosa, cioè non si ricorrerà all'intervento militare, però ci dovrà essere comunque una risposta. Anche The Times, invece, sempre in campo inglese, ha messo in rilievo che Cameron ha detto: non devo scusarmi con Obama, I don't have to apologize. Per il Daily Telegraph, invece, il voto del Parlamento inglese riflette lo scetticismo diffuso dal campo britannico, ma anche qui si mette in rilievo che lo stesso leader laburista Miliband, che è stato un po' il vincitore della situazione in campo interno, trascinando tutto il Parlamento dalla sua parte, o perlomeno la maggioranza dalla sua parte, ha detto che la Gran Bretagna non si deve lavare le mani della situazione siriana, ovvero, ancora una volta, non si tratterà di un intervento militare, ma ci dovrà essere una risposta di altro tipo e ferma e decisa. In campo francese, invece, Le Monde ha riportato un'intervista di Hollande proprio venerdì, che ha fatto capire che la posizione della Francia rimane molto ferma nei confronti della Siria. L'azione internazionale deve portare un colpo al regime siriano, dare un colpo di freno al regime siriano, detto Hollande. Il massacro chimico non può essere più tollerato. Ecco che quindi il presidente francese ha fatto capire la risolutezza della posizione di Parigi. Quindi si è, in sostanza, e viene riflessa dai media inglesi e francesi, una divaricazione piuttosto insolita, perché c'era tradizionalmente un asse anglo-americano sul campo della difesa. C'era semmai, ed è nato con una certa fatica, ci fu un famoso accordo nel 1998 a Saint-Malo, un asse anglo-francese per la formazione di una difesa europea. Ma invece ecco che sulla questione siriana si va in questo momento, nell'ipotesi di un attacco militare, a formare un inedito asse franco-americano, insomma, che veramente dal punto di vista della strategia, della geopolitica, è piuttosto inusuale se guardiamo alla storia degli ultimi decenni, anche se è vero che la Francia, sia in Libia ancora ai tempi di Sarkozy, sia nel Mali, ha dimostrato una certa propensione a non restare con le mani in mano, a intervenire anche militarmente. Dalla Spagna, come si vede tutto ciò? Il paese, dice, è il fantasma del fiasco iracheno che complica l'ipotesi di un attacco in Siria, cioè tutto viene ricondotto, insomma, all'esperienza irachena. Ricogliamo altri due opinioni. Dal Belgio, il giornale belga De Morgen riprende l'opinione di Guy Verhofstadt, che è stato primo ministro belga a lungo ed è leader dei liberal democratici al Parlamento europeo. Verhofstadt sostiene: non fare nulla è peggio di un intervento, cioè non si può rimanere con le mani in mano, e quindi a parere di Verhofstadt l'Unione Europea dovrebbe intervenire in Siria, perché questo è senz'altro migliore che non far nulla. In campo austriaco invece il Corriere, il giornalista Helmut Brandstatter scrive un editoriale ricordando che è molto importante però che Obama pensi a un piano di pace per la Siria, ovvero i missili da soli non portano alcun aiuto. Quindi scrive il giornalista poi che è un bene comunque, alla luce dei fatti successivi, che il governo austriaco abbia deciso in primavera di ritirare i propri caschi blu dal Golan. Quindi ecco un'altra visione da un punto di vista, diciamo, un po' laterale, quello austriaco. Ma passiamo adesso ad un altro argomento. È abbastanza curioso vedere l'Economist, che tra l'altro si schiera con la sua copertina appunto per un intervento nei confronti di Assad, però c'è la rubrica di Charlemagne, che storicamente è il corrispondente da Bruxelles dell'Economist, che tratta l'area euro come una classe che torna a scuola, e quindi c'è anche una divertente vignetta con i ragazzi che si tirano le pallette di carta e gli aerei, un po' soprattutto quelli dell'area, i paesi periferici, insomma, dal banco greco a quello italiano a quello spagnolo. E questa rubrica mette in rilievo quali sono le difficoltà che aspettano ad autunno al ritorno a scuola questa classe dell'euro. E dice sì, c'è l'ipotesi di una ripresa, di una flebile ripresa economica che rasserena l'atmosfera, però ci sono anche molti compiti da fare, perché c'è il timore poi, tra l'altro, che questa ripresa non sia così forte come si vorrebbe e che quindi non ci siano effetti considerevoli nell'occupazione. C'è poi il rischio che l'Europa continui ad avere delle spinte che la sfilacciano, cioè che ci siano delle forze populiste che continuano a guadagnare consensi. C'è poi anche il rischio che, non avendo più l'orlo dell'abisso, della crisi, della disgregazione dell'euro, non ci sia quello stimolo a fare le riforme che si dovrebbero fare, mentre ci sono le banche da riformare, il sistema bancario, come sappiamo, tutta la legislazione di supervisione dei grandi colossi bancari. C'è il problema di procedere con le liberalizzazioni, di far funzionare meglio il mercato dei prodotti e soprattutto dei servizi, per cercare di creare condizioni per l'occupazione. E poi c'è questa grande intesa di cui sono gettate le basi per un'intesa commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Quindi dice Charlemagne sull'Economist, insomma, ci sono riforme, riforme, riforme che attendono questa classe, che sembra ancora piuttosto così riottosa, e anche, tra l'altro, con una Angela Merkel che è molto ora preoccupata del risultato delle elezioni che ci saranno presto, per cui è apparsa un po' distratta dai destini dell'Europa e dell'euro. Passiamo poi a un altro argomento che ci riguarda più direttamente, e lo troviamo in un giornale rumeno, lo Jurnalul Național, che ha giovedì indicato come ci sia un numero veramente alto di rumeni che lavorano in altri stati europei. Oltre 2 milioni, 2,1 milioni è il numero stimato a livello europeo. Ed questa non è una sorpresa, perché sappiamo che molti rumeni scelgono, per motivi culturali, linguistici e anche di affinità, insomma, l'Italia. Secondo questo studio, che viene ripreso dal giornale rumeno, sono ben circa 900.000 i rumeni che scelgono di venire in Italia, mentre la seconda destinazione è la Spagna, con oltre 800.000 rumeni. Quindi, insomma, continua questo flusso da est nei confronti dell'Italia. Poi un altro argomento interessante che ci porta ad est, ancora più a est, quindi fuori dall'Unione Europea, in Ucraina. Perché? Perché l'Ucraina è sempre in bilico tra i suoi antichi legami con la Russia, e con la ex Federazione Sovietica e l'Europa. C'è, è stato negoziato una, è stato negoziato un accordo di libero scambio con l'Unione Europea, che, Unione Europea che però pone alcuni vincoli anche sul piano dei diritti umani e del processo della Timoshenko. Ed ora il presidente Yanukovych ha detto che toccherà al popolo ucraino decidere se votare e quindi ci sarà un referendum se si, veramente gli ucraini vogliono dare l'ok, il via libera a questo accordo di libero scambio, oppure se preferiranno mantenere il paese ancorato all'altra alleanza che vede Russia, Kazakistan e Bielorussia legate in unione doganale. Questo è tutto, io vi saluto, sono Enrico Brivio, vi auguro un buon ascolto dei programmi seguenti e ringrazio Roberto Scaltritti alla console. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.